Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Uno sguardo, un sorriso, due parole stentate in inglese, qualche bacio da adolescenti. Per 2 anni ci siamo scritti, poi io mi sono fidanzato con una ragazza italiana. L'ultima lettera è datata a giugno 95. Nell'era di Facebook io sono ancora fidanzato con la stessa ragazza di 14 anni prima e ci convivo. È il 2009. Per purissima curiosità la cerco su internet, solo con la voglia di rivedere quel viso e sapere che cosa le avesse riservato la vita. E la trovo. Ciao, sono Andrea, abito nella provincia di Bologna, ho 36 anni, faccio rappresentante. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. Voi avete un episodio della vostra vita che è particolarmente importante per voi? Andate a scavare nella memoria, qualcosa che in qualche modo vi abbia segnato o qualcosa che racconti qualche cosa di chi siete o di anche di chi siete stati. Lo scrivete in una pagina e lo inviate a noi, ci facciamo una puntata. Voi siete qui, @radio24.it. Ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona diversa e soprattutto ogni giorno un argomento diverso, perché tutte le storie che arrivano si sviluppano attorno a più temi, non sono mai monolitiche, a parte alcune che sono molto particolari, molto dettagliate, vanno al cuore di un argomento. Diciamo, abitualmente ce n'è più di uno. Noi però cerchiamo sempre di estrapolarne uno e di ampliarlo in modo da raccontare di più durante la puntata qualcosa che riguarda quell'argomento. La storia di oggi è la storia di Andrea e, ad esempio, questa puntata poteva essere presa da diversi punti di vista, poteva essere tirata per la giacchetta da diverse parti, poteva parlare d'amore, poteva parlare di persone che si rincontrano. Noi invece oggi vogliamo parlare di un'altra cosa, che è quell'idea, secondo me, secondo noi della redazione, sbagliata, per cui i treni passano una volta e se li hai persi, li hai persi. La storia di Andrea racconta esattamente quella cosa lì, racconta di come i treni in realtà, sì, passano una volta, ma poi probabilmente ripassano ancora. Nel suo caso ancora, ma ancora inteso che ripassano 2-3 volte. Se c'è un treno che voi non avete preso perché avete fatto un errore, perché avete scelto di non prenderlo o perché siete arrivati tardi e quel treno lì si è riproposto e finalmente ce l'avete fatta, 349-238-6666 sul profilo Twitter del programma, che è Voi siete qui R24. Ilaria scrive: io ho lasciato andare anche la seconda volta, credo di non essere portata per pigliare le cose al volo. Che siano al volo, che siano passeggere, i treni, cioè, l'occasione non è mai singola, no? Mi ricordo quando feci la scuola di teatro, parlavo con un attore, era un insegnante che era un attore anziano, molto, con una grandissima esperienza, e lui ci disse: guardate, quando gli attori, mi togli la base Paolino perché era molto silenzioso San Germano mentre mi diceva questa cosa, guardate, quando gli attori pensano di avere perso l'occasione della vita, abitualmente si sbagliano. E io credo che questa cosa avesse senso non solo per gli attori, ma in generale per quelli che fanno qualsiasi lavoro, e non solo sul lavoro, anche nella vita, no? Quando, sapete quando si dice, quell'occasione lì, niente, l'ho lasciata andare, poi basta. Di solito non è vero, è che ci piace piangerci un pochettino sopra. 349-238-6666, c'è anche un profilo Facebook del programma in cui qualcuno mi dice... le ho perse scientemente, io direi, le ho lasciate andare scientemente, i vasi aggiustati perdono di luce, non c'è nulla da fare. Però Cristina, qui non si parla di aggiustare dei vasi, si parla proprio di vasi che al massimo si ripropongono perché non si sono rotti. Tra l'altro è partita una micro diatriba sul profilo Facebook del programma, che Voi siete qui Radio 24, per la foto che ho caricato, non so se avete visto. Paolino, non so se hai visto che ultimamente carico una foto insieme a quello che scrivo, non te ne sei accorto perché non c'hai Facebook. Sta roba che Paolo Corleone non c'ha Facebook. Gliela apriamo noi. Abbiamo già provato con Rudy una volta ad aprirlo, ma niente, non ce l'abbiamo fatta. Insomma, io carico tutti i giorni una foto che spero abbia senso con quello che scrivo e con quello che è il tema della puntata. Visto che oggi si parlava di seconda possibilità, io ho caricato una foto di John Travolta durante Pulp Fiction. E giustamente Tiziano Bonini dice: ma che c'entra? E molti l'hanno scritto, anche se uno ha scritto: Fabrizio, mai foto fu più appropriata. Allora, a parte che John Travolta fa il V con le mani come se dicesse due, è già quello subliminale, ma non è quello. Ma, e lo chiedo anche a Fabio Cantadori che è in regia, abbiamo i due migliori tecnici in regia in questo momento, Paolino Corleoni e Fabio Cantadori. Chi più di John Travolta rappresenta la seconda possibilità. Allora, John Travolta parte con Tony Manero, giusto? Staying Alive. La prima di Staying Alive, La febbre del sabato sera. Non mi ricordo qual è prima dei due. Poi John Travolta sparisce. Non lo trovi più per, credo, 10-15 anni. E poi nel 1991 appare con Pulp Fiction e riprende una seconda carriera. Oh, mi dai ragione. Perfetto, quindi non era totalmente fuori contesto. Sembrava una foto fuori contesto, quasi come gli SMS fuori contesto. 349-238-6666. La seconda occasione che è tornata e l'avete afferrata. Andrea ne ha avuta non due, ne ha avute tre di occasioni. E poi finalmente se l'è portata a casa. Quando mi chiedono come vi siete conosciuti, al mio racconto vedo occhi che si illuminano. Sono un uomo fortunato, ma credo anche di essere stato abile a riconoscere i segnali che il destino mi mandava. La mia ragazza, Sigi, è austriaca, vive a Bruxelles, invece io vivo a Bologna. Io, Sigi, l'ho conosciuta tre volte. La prima volta fu nel 93, io 17, lei 14 anni. Io giocavo a pallavolo e stavo facendo un torneo estivo nel suo paesino natale. Fiumi di birra e tanta carne. Lei si occupava di un chioschetto di bibite. Uno sguardo, un sorriso, due parole stentate in inglese e qualche bacio. Per due anni ci siamo scritti, poi io mi sono fidanzato con una ragazza italiana. L'ultima lettera di Sigi è datata giugno 95. Passano gli anni. Nell'era di Facebook io sono ancora fidanzato con la ragazza di 14 anni prima e ci convivo. È il 2009. Per purissima curiosità cerco Sigi su internet. Solo con la voglia di rivedere quel viso e sapere cosa le ha riservato la vita. E la trovo. Di solito su Facebook cerco, quando mi vengono in mente persone del mio passato, mi incuriosisce sapere come si è evoluta la loro vita. Vedo le foto del viaggio di nozze e sono contento per lei. Chattiamo un po'. Lei vive e studia in Inghilterra, il marito invece è in Austria. Le chiedo se è normale, mi dice di sì. Differenze culturali, penso. Anche qui tutto si riferma. Altro salto in avanti, maggio 2010, dopo un anno di silenzio, Sigi mi scrive su Facebook, è in Italia, mi chiede se ho voglia di andare a bere un caffè assieme a lei. Le dico di sì, sono nel pieno della disperazione, la mia fidanzata se n'è andata dal giorno alla notte e mi ha lasciato in eredità un mutuo. Una distrazione può farmi solo bene, non ho cattivi pensieri, giuro, e poi Sigi è sposata. Arriva ed è bella, solare, con un grande sorriso e un sacco di energia positiva. Parla bene l'italiano e questo aiuta molto. Mi spiega che era in Toscana per un corso di yoga. Sta tornando in Austria, dove nel frattempo è tornata a vivere, e passando da Bologna le sono venute in mente. La sensazione che ho avuto quando l'ho rivista dopo tanti anni è stata quella di averla sempre conosciuta. Era il viso che mi ricordavo di aver incontrato tanti anni prima e abbiamo subito trovato un feeling sugli argomenti delle nostre vite. Passiamo un bel pomeriggio a chiacchierare. Lei sta divorziando e lì mi si apre un mondo. Da quel giorno di due anni fa non ci siamo più separati. Lei si è trasferita per lavoro a Bruxelles, io ho cambiato casa e spero che diventi presto la nostra casa. Sembrava impossibile, ma la ragazza che ho conosciuto 19 anni fa sta diventando la donna della mia vita. Non contano distanze o barriere culturali, solo che la prima volta che ci siamo incontrati era troppo presto. Il destino ci ha dato la possibilità di fare esperienze importanti per farci incontrare di nuovo nel momento in cui saremmo stati pronti a vivere veramente in due. And she knows from love and service. Yes, she knows from peace of mind. To be not sinister in purpose. And to never be unkind. And she loves a Tulsi garden. And she loves her rock and roll. Anch'io una volta sono stato lasciato, cioè più di una, ma una in particolare. E soffrivo come un cane, eppure capivo che era la specie di fine di una schiavitù. Il problema è che quando ci sei dentro alle cose, non le sai riconoscere molto bene. Oddio, poi a volte non le sai riconoscere nemmeno se sei fuori. Andrea ha conosciuto Sigi per ben tre volte, quando era giovane, quando era fidanzato e quando era un cuore triste e solitario. È chiaro che la terza situazione era la più adeguata per incontrare una donna e non è un caso che ora siano felicemente fidanzati. È andata bene così. E un po' a tutti succede di ripensare a quando si è persa un'occasione, non la si è sfruttata, e ci sembra che un treno sia passato e non ripasserà più. Io a questa cosa dei treni che passano una volta sola un po' ci credo e un po' no. Mi spiego. Se capita che c'è, non lo so, un concorso per dei posti come capotreno, e io non partecipo, ovviamente, perché non faccio quello di mestiere. Appena scade il termine per presentare la domanda in carta bollata, e io non l'ho presentata, naturalmente, io mi sento sempre come uno che aveva il tesoro a portata di mano e si è girato dall'altra parte. Mi immagino guidare un treno felice e poi penso che quello lo farà qualcun altro. E tutto perché io ho sbagliato e ho scelto di non provarci, perché non ho presentato la domanda. Quindi mi immagino lo stipendio di un ferroviere, la serenità di un posto fisso, la gioia di guidare una locomotiva nella notte e mille lati positivi di quel lavoro. E non penso che quel treno lì, in questo caso anche letteralmente, non passerà mai più. Penso che non ci sarà più un concorso del genere, e se ci sarà, io sarò troppo vecchio. Ho sempre fatto così, e qualche volta lo faccio ancora. Non mi viene in mente che un lavoro ce l'ho già, ad esempio, e che mi piace, oppure che i ferrovieri si fanno un mazzo tanto e non diventano ricchi, o che hanno dei turni assurdi. No, no, no, io in quel momento penso solo a tutto ciò che ho gettato via. È per questo che tutte le cose mi sembrano delle opportunità che non ho sfruttato. È solo che cerco ogni scusa per darmi contro. E la questione del treno che passa una volta sola è solo una scusa, in realtà. È vero che ci sono certe volte in cui capita un'occasione speciale che è giusto prendere al volo, certo, ma succede meno spesso di quanto noi crediamo. C'è a questo proposito uno studio dell'Università di Stanford. È una ricerca che è stata fatta da un gruppo di psicologi usando un questionario e poi altre interviste. Si dovevano ripercorrere, cioè le persone intervistate, dovevano ripercorrere gli snodi importanti della loro vita e quelle degli intervistati, quelle che gli intervistati ritenevano delle occasioni importanti che avevano perduto. Poi si facevano delle domande più specifiche sugli eventi e nel 92% dei casi, risultava chiaro che le cosiddette occasioni perse, i treni che passano una volta sola, erano in realtà delle costruzioni mentali. Ed erano i soggetti stessi quelli che avevano risposto a dirlo, ad ammetterlo, dopo aver risposto alle domande. E dirlo aveva avuto un effetto terapeutico, quasi rilassante. Come se accorgersi di non avere sbagliato tante volte quante si credeva fosse vero, li facesse sentire più sollevati, più felici della vita che avevano. Le occasioni vanno riconosciute, ma quando uno nella vita ne ha troppe, forse vuol dire che sono solo una scusa per trattarsi male. Sapere riconoscere i veri treni che non vanno persi, quello sì che è difficile, però è più importante. Mi viene in mente una vecchia storiella al proposito. La storiella è questa qua. Un giorno una persona sogna un angelo che gli dice che Dio farà arrivare un diluvio, ma che lui lo salverà. Il giorno dopo comincia a piovere. L'acqua si alza sempre di più, fino a che quella persona deve salire al primo piano per non essere spazzato via. Arriva un gommone dei carabinieri per portarlo al sicuro, ma lui lo manda via perché dice che Dio verrà a salvarlo. L'acqua continua a salire e l'uomo arriva fino al tetto. E lì viene travolto da un'onda di piena. Muore. Si presenta davanti a Dio, che gli chiede come mai non l'abbia salvato. Dio lo guarda e gli risponde: come no? Ti ho mandato un gommone. Maybe I'm a fool, or maybe I'm mad. I don't know, but just where I'm at. And I don't care, 'cause I'm leaving today. Well, I got to take off, baby, before I go insane. A 16 anni dovevo andare in America a giocare a tennis, era una promessa. Mio padre disse no, devi finire gli studi. Chissà. 349-238-6666. A 16 anni dissi di no a uno dei più grandi cantautori italiani. Puoi immaginare quante volte io mi sia pentita. Era il 1968. Ciao Giulia. Giulia, tu dicesti di no a che cosa? A suonare con lui o a fare un figlio con lui? Non capisco di cosa. E poi soprattutto, chi era lui? Uno dei più grandi cantautori italiani, guarda, può essere Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Gino Paoli, poi altri, basta. Battiato, però Battiato non me lo vedo. Come no, 68 Battiato? Beh, sì, no, non lo so. Ma 68 non so nemmeno se quelli che ho definito cantavano oppure no. La voce. Ah, ok, vabbè, allora Battiato lo togliamo. Per cui, dici qual è tra questi: 349-238-6666. La seconda occasione che si ripresenta e voi la cogliete al volo. Paolo scrive: la storia di Andrea assomiglia molto alla mia. Fidanzati giovani, separati, poi dopo 20 anni ci siamo ritrovati. Da tre conviviamo. Loro non sono 20 anni, se non ricordo male, sono 19. Sono passati gli anni passati da quando si sono conosciuti la prima volta. E adesso finalmente stanno insieme. Pronto, Andrea? Pronto, buongiorno a tutti. Come stai? Molto bene, grazie. Tutto bene. Dove ti trovi? Ma in questo momento sono in provincia di Modena, in giro per lavoro. Perché tu sei un commerciale. Io sono un agente di commercio. Un agente di commercio. No. E quindi rappresenti più di una società o sei monomandatario? No, sono monomandatario. Monomandatario, guarda, te l'ho chiesto solo perché volevo dire quella parola lì, monomandatario. Quante occasioni ha nella vita uno come me che non lo fa di dire monomandatario? Una, cioè quando incontra un agente di commercio. Mi dici che cos'è che vendi? Cioè anche... Cioè non si può dire proprio l'azienda, il nome, ma... Io vendo cosmetici professionali, servo salone di bellezza, spa e tutto quello che concerne la bellezza. Ah, ok. Beh, per cui una cosa portata di mano, perché di solito gli agenti di commercio vendono ingranaggi per quel macchinario che serve per creare un altro macchinario che viene venduto solo in Cina. No, roba di uso più comune, uso quotidiano. Veniamo a noi. Dov'è lei adesso, Andrea? Dove si trova? Lei è ancora a Bruxelles. E quando è che torna da noi? Da noi, perdonami, da noi viene, da noi inteso, quando è che viene in Italia? Ma in Italia viene abbastanza spesso, circa ogni 15 giorni, un weekend ce la facciamo assieme. Più spesso in Italia, in quanto Bruxelles, diciamo, non è la città più accogliente del mondo, quindi preferiamo stare in Italia. Senti, quindi l'idea è quella che lei trovi un lavoro qua, semplicemente, e che... L'idea principale è quella. Ok, ed è complicato trovarlo? Ci stiamo organizzando, vediamo, non voglio porre limiti alla provvidenza, vediamo cosa ci riserva il futuro. Senti, quindi voi l'avete proprio vissuta questa cosa come, tu lo dici, no? Come un, non come un caso, ma come se il fato avesse deciso di metterci 19 anni in mezzo dalla prima volta che vi siete incontrati alla terza, come per farvi essere pronti, per farvi preparare, giusto? La sensazione è esattamente questa, assolutamente non per caso, ma per una sorta di disegno divino che ci ha permesso di vivere appieno la storia che stiamo vivendo, di apprezzarla soprattutto, per quella che è. Senti, quante volte ne parlate di questa cosa? Quante volte la raccontate, ve la raccontate questa storia? O ormai è semplicemente entrata a far parte, siete semplicemente una coppia qualunque? Qualunque, con tutto il rispetto. Per chiaramente... All'inizio non ci credevamo neanche noi, quindi ci ragionavamo. Adesso è come il motivo per cui ho scritto è proprio perché me lo chiedono tanti come ci siamo conosciuti ed è sempre abbastanza divertente raccontarla. E adesso lo sanno tutti, cioè come dire, adesso lo sapete, ok? Bravo. Sono 2 milioni di persone che lo sanno, speriamo che tra quelle 2 milioni ci siano anche le persone che te lo chiedono. Scusa, invece una domanda vista da un altro punto di vista ed è questa, che... Io ho provato a mettermi nei panni della fidanzata con cui sei stato per 14 anni, no? Che ti ha lasciato lei, giusto? Esatto. Quindi sì. È tutto, siamo alla luce del sole, tutto pulito. Assolutamente. A lei hai raccontato questa cosa? Cioè, ma gliel'hai raccontata così come l'hai raccontata a me? Il fatto che ci sia stato una sorta di disegno del destino, per cui in realtà lei è stata come dire... Sì, lei faceva parte di questo grande disegno, grazie a lei poi tu e Sigi vi siete rincontrati. No, diciamo che è estranea a quello che è successo dopo di lei. Assolutamente estranea. Senti, quando vi vedete, Andrea, la prossima volta? Tra 15 giorni viene Bologna. Però quando è che andiamo a vivere insieme? Spero il prima possibile. Questo è l'obiettivo che abbiamo bisogno adesso. 2013? Speriamo che sia l'anno buono, speriamo. In bocca al lupo, Andrea, per questo e per tutto il resto. Grazie ancora. Grazie mille, grazie a te. Ciao, Andrea, buona giornata. Voglio dedicare 30 secondi, no 30, di meno, 20 secondi, perché poi dobbiamo mandare la borsa a Massimo Neriotti, il polpo. Massimo Neriotti ha alleviato spesso le nostre giornate con le storie riguardanti l'ultima, riguardava quanto lui si ingarellasse con qualsiasi mezzo di locomozione, ma soprattutto tutti lo ricordiamo per Scagnolari. E Mi scrive questo messaggio: con Francesca sono salito e sceso dal treno già due volte. Prima o poi saliremo sul terzo treno. Mi manca da morire. Massimo, tieni duro e soprattutto vai alla stazione, non stare a casa. Voi siete qui. Sembra uscita da una favola la foto che ci ha mandato Andrea, in cui sono chiaramente lui e Sigi, la fidanzata, la donna di cui ha parlato nella sua storia. Sullo sfondo c'è un castello, c'è un lago intorno al castello. Loro sono proprio al limitare di un prato verde che dà sul lago. Il cielo è azzurro, lei ha un vestitino a fiori, è leggero, lui una magliettina verde, dei Bermuda. È estate, fa caldo, lui la stringe e la solleva e si stanno baciando. C'è troppo romanticismo. E allora, per evitare tutto questo romanticismo, andate a guardare proprio i suoi piedi. Lui ha su delle scarpe da ginnastica e tra i suoi piedi e le scarpe da ginnastica ci sono degli orribili fantasmini bianchi. Occasione. Sostantivo femminile. Contingenza che consenta l'immediato verificarsi di un fatto determinabile come pretesto, opportunità, come momento o circostanza particolare o come motivo indiretto o fortuito. Nel linguaggio commerciale, un acquisto particolarmente conveniente in quanto non più sottoposto alle condizioni ordinarie del mercato. Etimo dal latino occasio occasionis, derivato di occasum, data secolo XIV. Il treno passa due volte, scrive qualcuno al 349-238-6666. Quando perdo una puntata la riascolto in podcast. Ciao e grazie per la compagnia. I fantasmini, io ho dato per scontato che tutti sapessero cosa sono i fantasmini. Sono le calzine bianche, quelle che arrivano sotto la caviglia, che sicuramente sono, non ti fanno sudare il piede, tutte quelle robe. Però ammetterete che fanno schifo. Cioè, fa schifo vedere il fantasmino che esce dalla scarpa. Ho rinunciato al primo progetto Leonardo, che è una borsa di studi all'estero, è una sorta di upgrade dell'Erasmus Leonardo. Dopo due anni l'ho vinto in extremis per l'Austria. Ora vivo da 6 anni in Austria con una stupenda ragazza austriaca. Ciao Massimo. Massimo, dici cosa fai. Matteo, la mia analista diagnostica totipotenza per chi, come me, pensa di poter fare tutto. Che è l'opposto da... l'opposto, è diverso da onnipotenza. Esempio, fare il capotreno senza averlo mai fatto, tipico della mia adolescenza e oltre, direi. Guido, ti ringrazio Guido per avermi dato questo sostegno, ma ringrazio anche chi mi scrive: hai fatto bene a non fare il capotreno, avresti controllato i biglietti, visto che a guidare sono i macchinisti. Sempre la figura del picciu. Matteo, ma siamo veramente 2 milioni? Mi sembra così intimo. Micaela, scusami. Micaela, sì, siamo veramente 2 milioni e questo è, la radio è fatta così, che sembra tutto intimo, invece... ma continua a essere intimo, però... Cioè, è intimo... Bonini, dammi la definizione di sta roba. Cioè, che è un mezzo... Quelle robe lì del mezzo caldo la sappiamo già. Però il bello della radio è che ti arriva nell'ora... Ti arriva la folla invisibile, ecco, mi aspettavo un po' di più da te, che ti arriva nell'orecchio, ma al contempo arriva nell'orecchio a altre milioni di persone. C'era un altro messaggio che volevo leggere. Ecco, questo vuole rimanere anonimo e quindi lo lasciamo anonimo. Carlo, non è vero, sto scherzando, non è vero. Si chiama in un altro modo. Che è picciu, ho detto due volte picciu oggi, che è piemontese. Io a 38 anni ho perso il mio ultimo treno, dopo 5 anni... sono stato senza motivo lasciato dal mio fidanzato. Senza motivo. Se tornasse da me sarei pronto a ricominciare. Felicissimo, lo rifarei. Ma è un treno che temo non tornerà mai. È totalmente privo di speranza. Io direi: fai una cosa, chiama il polpo e tiratevi su a vicenda. Tu e Massimo Nerriotti, secondo me una mano ve la date. Ciao Matteo, 30 anni dopo il treno è ripassato grazie a Facebook. Diciamo che il treno sostanzialmente è Facebook. L'abbiamo chiamato treno, ma si chiama Facebook. Io questa volta l'ho preso, un turbine di emozioni e di incredulità. Grazie Anna. Ciao Fabrizio, mettiamo tutti i nomi. Non è arrivata su Facebook invece, è arrivata via mail. Voi siete qui @radio24.it. La mail che vi voglio leggere. L'ho già anche pubblicata sul profilo Facebook perché così ho chiesto il permesso e l'ho fatto. E racconta di un treno che passa, non ci si accorge che è passato, ce ne si accorge, parlo del protagonista Giorgio, molti anni dopo, e quando se ne accorge, anche se è già andato, anche se sono passati dagli anni, decide di andarselo a prendere. Una volta ho perso un treno e non me ne sono nemmeno accorto. Quel treno aveva la forma di un bambino con la pelle nera e lo sguardo visionario. Aveva le mosche nel naso e rimaneva sempre immobile, sempre. Mentre gli altri gli giocavano intorno, lui guardava il mondo attorno a sé, come se lui sapesse qualcosa che noi non sapevamo. Ero in Africa per lavoro e ci rimasi un mese. Ogni mattina, fuori dall'albergo in cui stavo, lo vedevo seduto accanto a sua mamma, che vendeva semi di non so quale pianta, sparsi su un tappeto pieno di buchi. Un giorno, attratto dalla sua fissità, mi fermai per accarezzarlo sulla testa. Ricordo i suoi capelli crespi graffiare il palmo della mia mano. Lui non si mosse, ovviamente, ma sua madre si alzò di scatto, lo prese in braccio e me lo porse. In un francese africano mi chiese di prenderlo, di portarlo con me, perché in Europa avrebbe avuto una vita migliore. Io rifiutai. Lo feci nel modo più cortese che trovai, dicendole che non era possibile, che non funzionava così. Tutte le mattine, fino al giorno della partenza, li vedevo lì, per strada, sotto l'albergo. E ogni giorno il desiderio di portare con me quel bambino cresceva irrazionalmente sempre di più. Poi tornai in Italia. Sono passati 10 anni da allora. Ho cambiato lavoro, sono sposato e dopo pochi mesi dalle nozze io e mia moglie abbiamo subito sentito il desiderio di avere un figlio. Milo, il nostro primo figlio, è nato 6 anni fa. Claudia, invece, la seconda, è arrivata 3 anni dopo. Lo scorso anno io e mia moglie siamo andati in Kenya a trovare degli amici che hanno una casa al mare. Il posto è un paradiso. Abbiamo trascorso una splendida settimana di vacanza. Ma andando verso l'aeroporto ho rivisto i pezzi di Africa che avevo visto molti anni prima. E tutti i bambini che incontravo me ne ricordavano uno. Quel bambino là, quello silenzioso sotto il mio albergo. Ecco, solo in quel momento lì mi sono accorto di avere perso un treno 10 anni prima. Oggi, insieme a mia moglie, abbiamo iniziato l'iter per l'adozione. Il viaggio è molto lungo e complicato. Non è nemmeno certo che accetteranno la nostra domanda, ma sono felice di averla fatta. Le occasioni non passano una volta sola. Anzi, forse la prima volta, quelle che noi pensiamo di aver perso, non erano nemmeno un'occasione vera e propria. Era solo un interruttore che aspettava di essere schiacciato per accendere la luce. Ciao, Giorgio. You break my heart almost 3 times a day. Well, I complain, but there's nothing to say. Now I don't want you, can't see you no more. You say your prayers like they taught you in school, but your only fun is to make me feel blue. Now I don't want you, can't see you no more. You sold my car and my color TV. You turned down my self-esteem. Now I don't want you, can't see you no more. Ciao Matteo, anche la mia storia è simile, scrive Mario da Genova. 15 anni di matrimonio, 8 di separazione e adesso di nuovo insieme con lei. Un grande amore. Questo poi è un modo per vederla. L'altro modo semplicemente è che per 15 anni si è sbagliato. Cioè che semplicemente si era fatta la scelta sbagliata prima e poi si è tornati sulla nuova strada. Cristina invece scrive proprio così, apertamente: che culo ha avuto Andrea? Invidia elevata all'ennesima potenza. Io li ho persi tutti i treni, anzi penso di avere preso solo treni sbagliati che mi hanno portato in tutt'altra destinazione da quella che avevo scelto io. Cristina, dalla foto però sembra molto giovane, quindi hai voglia, ne hai ancora di tempo. E ha soprattutto risposto Giulia, quella che ha detto di no al cantautore nel 68, che dice: è tra quelli che hai nominato. Ma te credo, li ho nominati tutti. Però voleva che andassi a vivere con lui, ero molto ingenua, andavo a scuola dalle suore. Ciao Giulia. Guarda Giulia, è un po' la storia di tutti noi. Non quella del cantautore, quella di essere ingenui e di essere andati a scuola dalle suore, più o meno. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. Grazie ad Andrea, soprattutto. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Buongiorno, sono Dario, la storia di domani è la mia e parlo dell'Indocina, così com'era. Questa è la mia storia ed io sono qui.